Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole. Abbiamo a disposizione centinaia e centinaia di parole. Non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, ma nonostante questa volta ci manca la parola, non troviamo quella giusta. Molti malintesi nascono da una parola usata nel modo sbagliato. Ci sono poi parole che rimangono intrappolate sulla punta della lingua, parole che non riusciamo a pronunciare, parole che invece pronunciamo di frequente, parole che usiamo per occasioni speciali o per persone speciali. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole. Andiamo a cercare insieme le parole per pensare. Andiamo a cercare insieme le parole per pensare. Abbiamo parole per fingere, parole per ferire, parole per fare il solletico. Andiamo a cercare insieme le parole per amare. Andiamo a cercare insieme le parole per amare. Abbiamo parole per piangere, parole per tacere, parole per fare rumore. Andiamo a cercare insieme le parole per parlare. Andiamo a cercare insieme le parole per parlare. Prendiamo il passo da questo testo di Gianni Rodari. Quali sono le parole che pronunciate più spesso? Quali quelle che dimenticate o fate fatica a ricordare? Quali sono le parole che usate per entrare in sintonia con una persona? E invece quali sono le parole che vi infastidiscono? Vi abbiamo scritto sul nostro profilo Facebook, molti di voi hanno accolto il nostro invito e ci sono arrivati alcuni post. Giuditta Chiacchierona dice la parola top, questa la infastidisce molto. Katia invece, siamo amiche, e mette tra parentesi, ma non sanno proprio il valore. Anna ha numerose parole che la irritano, le danno fastidio. Il piuttosto che... assolutamente, un attimino, una manciata di secondi, minuti, festival pronunciato con l'accento sulla E e francese, che diamine, festival, tutti gli inglesismi inutili, grosso invece di grande. 800 24 00 24. Oggi ci lasceremo trascinare da un fiume di parole. Ci accompagnano il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Asso Mensana, che è qua in studio con me. Buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta. E il dottor Francesco Aquilar, psicologo psicoterapeuta cognitivo. Buongiorno dottor Aquilar, bentornato. Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professor Iannoccari, dietro ogni parola, anche la più semplice, c'è un lavoro molto molto raffinato del nostro cervello. Infatti la neurolinguistica insegna che il linguaggio non è un'abilità unica, ma la somma di tante piccole abilità. E ricordiamo che il linguaggio è una delle conquiste della specie umana, è quella che ci differenzia dalle altre specie, è anche abbastanza recente e, come giustamente dice lei, coinvolge anche tante piccole abilità. Pensiamo quando stiamo per formulare un ragionamento, che cosa succede? Di solito c'è uno stimolo, quindi una parola, un'idea, un colore, un odore. Questo stimolo attiva un pensiero, un ricordo, un'idea che giunge all'attenzione e quindi noi dobbiamo decidere se dobbiamo prestare attenzione a questa nuova idea. Dopodiché possiamo decidere di comunicare questa nostra intenzione, questo nostro pensiero. Se decidiamo di farlo, allora dobbiamo riorganizzare il pensiero e trasformarlo in un qualcosa di comprensibile al nostro interlocutore. Dopodiché dobbiamo trovare tutti i fonemi, cioè tutte le singole, i singoli suoni delle singole parole, metterli insieme in dei morfemi, che sarebbero le parti, le sillabe delle parole, dopodiché costruire la frase con la sintassi e attivare il processo motorio in modo tale che il linguaggio venga verbalizzato. Tutto questo in meno di un secondo. Dottor Aquilar, a sentire tutto questo lavoro, che cosa c'è dietro ad ogni nostra frase, anche la più piccola, verrebbe da diventare improvvisamente taciturni? E certamente verrebbe da spaventarci. Per fortuna il nostro cervello è abituato a fare questo molto rapidamente e quindi noi nella maggioranza dei casi possiamo concentrarci invece sull'aspetto comunicativo, sul modo col quale diciamo la cosa, non soltanto sul significato di ciascuna parola o della sintassi che organizziamo rapidamente, ma sulle implicazioni in termini di significato, per cui la stessa parola detta con due toni diversi può avere due significati completamente differenti. Ehi, sai che ti dico? Le donne dovrebbero essere più simili agli uomini. E eliminare le chiacchiere. Oh, le chiacchiere. Sì, eliminiamo tutte le chiacchiere. Ciao. Com'è andata con Ruby? Bene. Ah, meno male. Ho tante cose da raccontarti. Lo sai chi c'era? Doreen Feldman. Ah, lo sai che i freni fanno di nuovo quello strano rumore e devi farli vedere un'altra volta? Allora, insomma, il cognato di Doreen è venuto in città e sai che suo marito Richard non lo può vedere. Ah, amore, c'erano dei biscotti alla crema di formaggio deliziosi. E siamo tornati, ma un collegamento con la redazione per gli aggiornamenti. Ecco, innanzitutto il bilancio purtroppo si aggrava. Buongiorno a te Nicolette, buongiorno agli ascoltatori. Ci sarebbero almeno 3 vittime e alcuni feriti, ma secondo l'agenzia AGI morti sarebbero 6. E notizia di poco fa, 2 operai di un caseificio sono rimasti feriti nel Piacentino, uno è gravissimo. Gli operai sarebbero a Castelvetro Piacentino nel deposito di stagionatura formaggi AIMI per la caduta di un ingente quantitativo di forme di grana padano dagli scaffali. Riccardo Poli, cremonese, 20 anni, residente a Castelvetro, ha subito lo schiacciamento del torace ed è stato trasportato all'ospedale civile di Cremona in prognosi riservata, e Laurent Tendanupo Parromeno, 44 anni, ha subito un trauma al piede. Per quanto riguarda gli altri crolli, ci sono crolli di edifici e capannoni segnalati a Mirandola, Medolla, Cavezzo, dove su Twitter si riportano testimonianze di un crollo del 75% del paese, colpita gravemente San Felice sul Panaro, località già pesantemente distrutta dal sisma del 20 maggio. Prossimi aggiornamenti nelle prossime appunto finestre. E ringraziamo la redazione Anna Marino e noi continuiamo la trasmissione di oggi. Parliamo di parole. In linea con noi, per chi si fosse messo in contatto solo ora, il dottor Aquilar e il professor Ian Noccari. Dottor Aquilar, uno psicoterapeuta non è interessato tanto al numero delle parole, ma alla qualità delle parole e al momento in cui vengono usate. Certamente, e anche al contesto di ascolto. Perché ad esempio poteva sembrare, anche dall'inserto che era stato trasmesso prima dell'intervento di aggiornamento, poteva sembrare che la persona che parlava raccontava 200.000 cose, ma che in realtà avevano in comune un contesto di non ascolto. Probabilmente l'interlocutore dall'altro lato non seguiva quello che questa persona stava dicendo. Quindi le parole sono molto importanti. Viviamo in una società dove le informazioni che ci arrivano sono miliardi e spesso abbiamo difficoltà a tenerle insieme, e quello che ci serve è di preservare un contesto di ascolto privilegiato, e la psicoterapia è appunto uno di questi. Ma anche nella vita e nelle relazioni che ci interessano può essere importante favorire un contesto di ascolto. Con il contesto adeguato le persone taciturne parlano, e con un contesto adeguato le persone troppo chiacchierone ridimensionano il più delle volte il loro eccesso di parole. Quindi taciturni o chiacchieroni, ma come mai? Ci sono delle parole, mi stanno arrivando tanti messaggi, i nostri ascoltatori mi stanno scrivendo le parole più fastidiose. Perché, dottor Aquilar, lo chiedo, girerò poi la domanda anche al professor Ian Noccari, abbiamo proprio delle parole che ci innervosiscono solo a sentirle pronunciare? Per una serie di inferenze che noi facciamo su quella parola, e queste inferenze possono essere ragionevoli, ma il più delle volte sono arbitrarie. Nel senso che possiamo stabilire, come dicevano appunto gli ascoltatori che si segnalavano all'inizio, la parola stop di per sé è neutra, e che però nella nostra esperienza può essere collegata ad un contesto fastidioso di disagio interpersonale. La parola siamo amiche invece può portare una serie di implicazioni negative, perché può essere collegata all'inganno, o per meglio dire alle 3 dimensioni dell'inganno, che sono la falsificazione, il nascondimento e l'equivocazione. Quindi dietro quel siamo amiche ci può essere un sabocchetto, per questo per alcune parole scattiamo con senso di allarme. Allora datemi 3 parole che vi piacciono e 3 parole che non vi piacciono. Michele da Verona e Stefano da Napoli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io più che parole che non mi piacciono, per scherzo è nato tra amici, gli slogan odiosi che ci sono nei volantini della pubblicità dei supermercati, tipo ideale per, ottimo per, quelle cose lì, che è proprio quello. Ma stiamo un po' perdendo, Michele. Possiamo richiamarla? Possiamo a Stefano da Napoli, Michele, la richiamiamo. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sto chiamando per un'abitudine che ormai è diffusissima, è quella di dire qualcosa, però anticipando questo qualcosa dall'espressione fra virgolette. Cioè io se devo dire che, per dire, cioè, lei è stupida, fra virgolette lei è stupida. Cioè, perché Stefano, a proposito di parole, perché non mi ha detto lei è molto simpatica o molto intelligente? No, perché generalmente viene usato per crearsi un alibi, per crearsi crearsi una difesa nel momento in cui poi l'interlocutore può attaccare. Dice no, ma io l'avevo, fra virgolette, quindi certo, l'ho interpretato in 100.000 modi, perché io fra virgolette voglio evidentemente dire un qualcosa che non è proprio quello che letteralmente dice quella parola. E questa è un'abitudine che soprattutto poi in politica la vedo spesso nei talk show. E tra l'altro mi è capitato, andando all'estero, di vedere le televisioni straniere, e anche all'estero, e così facendo poi quell'odioso modo di gesticolare che fa le virgolette, certo, indice medio delle due mani. Per me è una cosa odiosa. Odiosa. E ognuno mi dica una cosa, una parola, Stefano, invece, che le piace, che le attiva subito dei pensieri positivi, una sensazione di benessere, di relax, di simpatia. Di simpatia potrebbe essere tranquillità. Tranquillità? Sì, la parola tranquillità e serenità, questa è la cosa forse che... l'ambizione di ognuno, di molti di noi, quasi tutti noi vorremmo, no? Allora, la parola serenità mi fa pensare a tanto, a tante cose, a qualsiasi livello, insomma. Grazie Stefano, perché oggi con il dottor Aquiler, in base anche alle parole che ci racconterete, ci sottolineerete come parole che vi piacciono, però parole che invece vi infastidiscono, proveremo a dare delle indicazioni, dottor Aquiler. E come no, Stefano, anche qua c'era un sistema di inferenze su una cosa che normalmente è neutra. Le virgolette nello scritto esistono e nel parlato bisogna assolutamente specificarlo in alcuni casi, ma Stefano è particolarmente sensibile all'uso strumentale del tra virgolette per differenziare tra un livello sostanziale e un livello apparente. Dobbiamo stare attenti a questo, perché chi conosce i nostri meccanismi ci può telecomandare come un televisore, nel senso che un ipotetico interlocutore di Stefano, se utilizza le parole tranquillità e serenità, che nel suo caso sono associate a sincerità e a un contesto amichevole, lo frega. Certo. Quindi noi dobbiamo essere molto attenti alle implicazioni arbitrarie che ci abbiamo in mente. Fermo restando che può darsi che chi dica tra virgolette ci sta ingannando, non dobbiamo darlo per certo se non dopo aver avuto un'informazione che ce lo confermi. Quindi dimmi la tua parola e ti dirò chi sei, ma con il professor Iannocchiari invece useremo le parole per allenare il nostro cervello. Molti di voi, molti di noi ad esempio, usano come palestra il cruciverba, professor Iannocchiari, ma non c'è solo il cruciverba, naturalmente, ci sono tanti giochi. Stefano, Stefano mi stia a sentire, tra virgolette, no, tante situazioni in cui noi possiamo utilizzare la parola per allenamento. Per allenamento. E anche per capire a che il nostro cervello, se è stanco, se è attento, se ha memorizzato, se fa bene il suo lavoro. Esattamente. Il cruciverba va benissimo per fare un esercizio molto importante, andare a recuperare quelle parole dal nostro vocabolario che solitamente non utilizziamo. Infatti i cruciverba solitamente ci propongono delle sfide su dei termini abbastanza inusuali, per cui dobbiamo fare una certa attivazione, un certo sforzo. Teniamo conto che abbiamo un vocabolario medio di 50.000 parole, ne utilizziamo benché vada un quinto, quindi solitamente li giriamo sempre con gli stessi termini. Il cruciverba ci aiuta a recuperare anche le parole che usiamo di meno. Possiamo fare degli esercizi anche noi per stimolare diverse funzioni, ad esempio se vogliamo migliorare il piglio, cioè la capacità di prendere la parola che ci serve al momento giusto, sì, ed evitare quel fastidioso fenomeno della parola sulla punta della lingua, possiamo ad esempio rapidamente in 30 secondi ad esempio recuperare tutte le parole che iniziano con la lettera, con la sillaba be. Come benessere. Beh. Quindi velocemente provare a scrivere il maggior numero. Quante almeno? Direi in 30 secondi almeno 7. Almeno 7. Mamma mia, vedo Laura Vanossi che è rimasta senza parole da dietro il vetro, ma invece le parole le troverete voi, perché noi attingeremo alla libreria di Essere Benessere 800 24 00 24. 30 secondi, voi chiamate, mi dite: Nicoletta, voglio provare a trovare le parole che iniziano per ve, me le date. Attenzione, perché dovete trovare quelle giuste, ma il dottor Aquiler con il grande orecchio ci sentirà e ci farà un'analisi un'analisi, cercherà di capire e di raccontarci perché abbiamo scelto quelle parole e non altre. Dottor Aquilar, mi sono allargata troppo? Assolutamente, siamo pronti. Siamo pronti. 800 24 00 24, sarete pronti anche voi, ma noi abbiamo ripescato Michele da Verona. Michele, sì, buongiorno. Eccola. Mi senti adesso? Sì. Sì, adesso la sento. Ero rimasta agli slogan che le davano fastidio. Noi in compagnia si scherzava sugli slogan che mettono sui volantini o della pubblicità, dei supermercati, eccetera. E poi abbiamo scoperto che sono veramente odiosi. Cioè, lo stentare, quello slogan pubblicitario che proprio ti dichiarano una cosa, per quando c'è pubblicità ti dicono che è la migliore del mondo, ti dicono che fa tutto lei, e sono odiosi. Quella roba lì proprio non la sopporto. Abbiamo sviluppato questo odio verso gli slogan che veramente... E cosa la porta a fare? Quindi lei non entra in quei posti che si pubblicizzano con slogan che le... Ci dà fastidio, ma ci scherziamo su, ogni tanto per messaggio ci si manda il messaggio con degli slogan inventati, così per scherzare, però abbiamo visto che sono abbastanza antipatici. Me ne dica uno, me ne dica. Per esempio, quando ti mettono che c'è un oggetto che è ideale per far tutto quello che vuoi, ideale per golose merendine, per fare le tue golose pizzette, quella roba lì, quegli slogan fatti così, cioè proprio ostentare il massimo delle cose. Grazie a Michele da Verona. 800 24 00 24, le parole per dirlo, le parole per misurare anche la nostra capacità di dialogare con gli altri, di entrare in relazione, le parole che ci danno fastidio, ci misuriamo un po' con le parole. Attenzione, ci sono parole molto importanti, sono le parole che diciamo a noi stessi e aiutano la nostra autostima. Essere e benessere. Cultura letteraria. Sì. Scientifica o spicciola? Sono tre buste, no? Io devo scegliere tra tre buste. Spicciola. Cos'è la prostata? Dunque, sì, la prostata è facile. Ecco, dice sì, di donna molto prostra. Dunque, dicevo che è una posizione... Donna in stato di... adorazione. Mi sovviene. È un dolce. Lo faceva anche mia mamma. È la prostata. La prostata si può fare di metilo, di pera... E l'imperatore romano, e l'eresiarca bizantino, Giuliano, la prostata. Abbiamo ripreso dottor Aquilar con un Fantozzi, che ridere sulle parole è sicuramente un esercizio che solleva i cuori. Sicuramente ci sollevi i cuori, e anche fare i giochi di parole, dove la nostra intelligenza a volte si diverte a farlo. Anche se Paolo Villaggio ci riporta ad un tema molto importante della comunicazione, che è quello dell'ansia sociale. Ovviamente il personaggio che abbiamo ascoltato è eternamente in una continua e avvilente ansia sociale, per cui questo poi influenza anche le parole che lui dice e il modo in cui decodifica le parole che gli altri dicono a lui, quindi è un tema sicuramente interessante. Infatti ci sono delle parole, delle persone che ci fanno restare senza parole, ci mettono in soggezione, si dice, ma ci sono invece parole, professor Iannoccari, su questo lei può fare poco, dobbiamo chiedere al dottor Aquilar, invece lei mi deve spiegare, e così rispondiamo a tanti ascoltatori, perché ci sono delle parole che si dimenticano più spesso di altre. Le parole sono, intanto ricordiamo che le parole sono organizzate in reti di significato. Probabilmente in questa fittissima rete ci sono delle zone in cui noi poco ci piace avvicinarci, oppure potremmo essere disinteressati a quel tipo di fatto che dovremmo ricordare o quelle parole che potremmo utilizzare, quindi può essere una scelta inconsapevole dovuta ad un fastidio oppure al fatto che non utilizziamo spesso, non raggiungiamo spesso quella porzione di rete di significato. Cosa possiamo fare? Possiamo fare degli esercizi, ad esempio. Se noi rileviamo... Lei ci fa sempre lavorare, lei non sta mai fermo. Beh, la mia interlocutrice non è da meno, quindi mi adatto volentieri. Allora, lavoriamo. Ad esempio, se rilevo che la parola che non mi sovviene è ad esempio la parola sport, va bene, perché magari sono una personalità un po' pigra, perché mi piace più coccolarmi che muovermi, allora potremmo fare un esercizio, cioè andare ad attivare quella rete. Come? Prendiamo la parola sport e troviamo tutte le parole che sono associate alla parola sport, in modo da rivitalizzare, da riattivare tutta quella parte, va bene, che attiene alla parola che io solitamente dimentico. E questo possiamo farlo tranquillamente con tutte le parole che di solito dimentichiamo. Abbiamo in linea con noi Roberto da Cagliari. Buongiorno Roberto. Vorreste sapere altre parole che possono infastidirmi? Sì, se vuole. A me piacerebbe però sapere anche le parole che ci danno gioia, che ci fanno simpatia, che ci fanno stare bene, perché abbiamo bisogno anche di quelle. Comunque Roberto, scelga lei. Ma guardi, adesso si abusa secondo me molto della parola tipo. Tipo? Sì, anziché dire ad esempio, si dice molto la parola tipo. Tipo, è vero. Si intercala con la parola tipo o si inizia il discorso con la parola tipo. Si può anche dire ad esempio, sono stato poco bene, tipo mal di testa. Ecco, ho sentito anche dire di queste cose. Poi si abusa molto dell'espressione piuttosto che. Guardi, su piuttosto che c'è stata una polemica, io ho un medico che è il dottor Confalonieri, tanto è amico, che è amico degli ascoltatori di Essere Benessere, che viene e si è proprio misurato una battaglia con l'utilizzo di piuttosto che. Invece io volevo dirvi che in testa alla classifica delle parole più odiose, almeno leggendo i messaggi al 349-238-6666, c'è assolutamente sì e assolutamente no. Dottor Aquilar, perché secondo lei? Sempre per il tema dell'inganno. Sempre per il tema dell'inganno, cioè nel senso che la cosa alla quale siamo sensibili, soprattutto in un periodo storico nel quale la comunicazione verbale ci attacca da tutti i lati, con forme di comunicazione anche nascosta e a volte invadente, l'idea che ci sia qualcuno che ci voglia persuadere che qualcosa sia assolutamente in un modo piuttosto che assolutamente in un altro può suscitare allarme, ma anche qua dobbiamo stare molto attenti a queste nostre ipersensibilità, perché a volte, come dicevamo prima, le inferenze possono essere del tutto arbitrarie. E se fosse vero che qualcosa è assolutamente in un certo modo, per ritornare all'esempio che faceva prima il nostro paziente, che il nostro ascoltatore che odiava le comunicazioni pubblicitarie, ideale per golose merendine, e se lo fosse davvero? Quindi servirebbe di domandarci talvolta se la forma nella quale ci arriva un messaggio non possa essere talmente abbagliante da farci perdere di vista il contenuto. Dottor Aquilar, lei ha usato paziente invece che ascoltatore, questi sono lapsus. Sì, è un lapsus vero. Ecco, questo è un lapsus, quindi una parola detta al posto di un'altra. Perché succede questo? Che lettura dà lei come psicologo cognitivo, e che lettura invece dà il professore Iannoccari, che il cervello lo studia e lo allena? Dottor Aquilar. Beh, quella che do io è ovvio in questo caso di questo lapsus, è naturale che io per abitudine tratto le persone che ascolto come se fossero pazienti. Sì. E quindi tendo a ridefinire quello che viene detto esattamente come faccio con i pazienti in terapia. Poi ovviamente il significato dei lapsus di altro tipo è molto più ampio. È molto più ampio. Invece, professor Iannoccari? È una sostituzione o una cosiddetta parafrasia semantica che è attribuita proprio al fatto che viene usato concettualmente di più quel termine, riferendosi ad un soggetto piuttosto che altri, per cui si completa con la spiegazione che ha dato il collega. Abbiamo in Giuseppe che ci chiama da Monza, 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Io sono un reo confesso, nel senso che a proposito del discorso assolutamente sì, assolutamente no, io ne ho fatto quasi come dire una specie di escamotage per riuscire a non scontentare nessuno quando si parla per esempio di politica o di cose che non vanno bene o non vanno male. E allora quando qualcuno vuole proprio sentirsi dire hai ragione, io dico assolutamente, Ma non gli dico se assolutamente sì. Si ferma con l'assolutamente. E loro sono contenti. Assolutamente. Assolutamente. Volevo partecipare anche al gioco, se era possibile. Allora, Giuseppe, 30 secondi io ho per trovare, almeno ha detto il professor Iannoccari, 7 parole. Sì. Ok. Devono essere parole che iniziano con be. Che iniziano con be. Ok. Che sarebbe... Vado. Sì, vada. Benessere, beltà, beota, beone, bello, belato e beato. Beato, benissimo, benissimo. Allora, Parlo, dunque sono. È un libro che io ho particolarmente caro, scritto da un linguista raffinato che è il Andrea Moro, il professor Andrea Moro, che è stato da noi ospite, e dato che ne ho due copie, io le volentieri, dato che lei è stato il primo ascoltatore, soprattutto alle 7 parole le ha detto, le farò ricevere a casa. Parlo, dunque sono, ad Elfi Editore. Grazie al nostro ascoltatore 800 24 00 24. Voglio salutare la dottoressa Elena Flauniaco, psicologa all'ospedale materno infantile Burlo Garofalo di Trieste. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Allora, con la dottoressa parliamo di un altro genere di linguaggio. È un linguaggio che aiuta però le nostre... il linguaggio che utilizziamo tutti i giorni, e lo fa soprattutto con i bambini. Non voglio dirvi altro, forse avete già capito, potete scrivermelo. Intanto anche questo esercizio, no? Professore Iannoccari. Sì. Ma come diventiamo qua a forza di allenarci e con le parole e con quello di cui parleremo con la dottoressa? Essere e benessere. E diamo la linea a Valentina Furlanetto della redazione per degli aggiornamenti. Grazie Valentina. Sì, grazie a voi e buongiorno di nuovo. Sono almeno 8 purtroppo le vittime del terremoto di oggi in Emilia Romagna. Si scava fra le macerie, sono crollati diversi capannoni industriali ed edifici a Medolla, Finale Emilia, Cavezzo, il Duomo di Mirandola, ha subito forti danni. L'epicentro, lo ricordiamo, è stato Modena, ma è stata avvertita la scossa in tutto il nord Italia. Sono state almeno 2 in realtà le scosse, a cui sono seguite, come spesso accade, altre scosse di minore intensità, come ci testimonia una signora di Carpi, Rita Pacchioni, che abbiamo sentito proprio 20 minuti fa. Siamo tutti per strada, ci sono delle persone anziane. Le scuole sono state evacuate? Oh, ma assolutamente. Ho notizie a Cavezzo che è un disastro. Un disastro, hanno detto, sono crollate delle palazzine, ma però erano già state evacuate. Dicevano che i capannoni delle fabbriche, molti capannoni delle fabbriche sono crollati. Dei capannoni. Adesso ce n'è un'altra forte adesso. Madonna mia. In questo momento c'è stata una scossa? Sì, in questo momento. E proprio mentre andava in onda questa testimonianza è stata lanciata un'agenzia ANSA che riporta che il numero delle vittime è salito a 9 e ci sarebbe proprio una donna morta a Cavezzo, sepolta sotto le macerie di un capannone. Anna Marino, ha sentito il comandante della Polizia Municipale di Cavezzo, Michelini, sentiamo. Brutta, brutta, è venuto giù tutto. Ci sono delle vittime? Sì, ci sono delle vittime, non so dirle quante però. State scavando tra le macerie, di quali abitazioni, anche capannoni? Le abitazioni, capannoni. Le persone sono fuori per strada? Sì, adesso sono fuori. E poco fa ha parlato anche il Presidente del Consiglio Mario Monti, assicuro che lo Stato farà tutto quello che deve fare, che è possibile fare nei tempi più brevi per garantire la ripresa della vita normale, ha detto il Governo, sarà alla Camera alle 17 per dare una prima informativa sul terremoto. A voi la linea. E trovare le parole per riprendere a trattare il tema quotidiano di una trasmissione non è facile, in attesa di altri aggiornamenti riprendiamo il collegamento con la dottoressa Elena Flauniaco, con cui molti di voi hanno già intuito parliamo di musica. Dottoressa, un altro linguaggio che in qualche modo aiuta il linguaggio, che le nostre capacità linguistiche, non solamente le nostre ma soprattutto quelle dei nostri bambini. Infatti quanto finora documentato dalla ricerca in ambito internazionale ci permette di dire che effettivamente giocare con la musica, fare pratica musicale, aiuta lo sviluppo del linguaggio, aiuta la capacità di imparare nuove parole e nuove lingue. E questo succede perché probabilmente c'è una forte sovrapposizione tra quelle che sono le aree cerebrali deputate all'elaborazione musicale e quelle che invece sono deputate all'elaborazione linguistica. E poi un altro aspetto fondamentale della musica è che la musica è fortemente emozionante e quindi può essere molto motivante per il bambino. Quindi esporre il bambino alla musica vuol dire in qualche modo aiutarlo a sviluppare numerose abilità, dalla memoria alla decodifica al linguaggio. Esatto, perché la musica aiuta proprio lo sviluppo di quelle abilità di base che servono poi per costruire altre abilità più complesse, anche quelle linguistiche, ad esempio la discriminazione uditiva alla base. E si può fare proprio, oltre che con lo studio di uno strumento musicale, naturalmente proprio con il gioco, con l'ascolto, con le filastrocche, dottoressa. Sì, filastrocche, cantare insieme ai bambini, oppure strutturare dei giochi ritmici con dei tamburi, creando un'interazione tra mamma e bambino o anche tra bambini. Oppure pensando anche al vecchio gioco delle belle statuine. Ecco, il gioco fa crescere. Ecco, grazie alla dottoressa Flaugnacco. Ci sono delle parole che qua a Essere Benessere abbiamo imparato a usare in modo differente. Le abbiamo sempre pronunciate, le abbiamo sempre associate ad un concetto e poi ed è quello che è successo a chi ha seguito Mangia con me, il nostro reality per imparare un nuovo stile alimentare. Qua in studio con me il dottor Ongaro. Dottor Ongaro, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Ad esempio le calorie non sono più quelle di una volta. Le calorie non sono più quelle di una volta, ne abbiamo parlato molto a Mangia con me, abbiamo voluto attribuire al termine calorie, così come ad altri termini che abbiamo discusso nel corso della trasmissione, un valore leggermente diverso. Abbiamo imparato soprattutto a sostenere che le calorie non sono soltanto energia, ma quello che il cibo ci apporta è anche informazione che è incapace di regolare i nostri processi cellulari, e quindi abbiamo contribuito a creare una versione nuova di una parola molto nota. E di questo lei parla nel suo nuovo libro, che... Di questo parlo nel mio nuovo libro, Mangia che dimagrisci, dove vogliamo anche superare, Nicoletta, questa situazione di vedere il cibo come un nemico, ma creare una nuova alleanza tra noi e gli alimenti, imparando soprattutto a scegliere quelli giusti, e se scegliamo quelli giusti attiviamo il metabolismo e perderemo anche del peso. Oggi a Milano, perché proprio il presenterà il suo libro al Mondadori. Con te, Nicoletta. Con me. Ricordiamolo. Per cui se volete venire, prendete, come si dice, due piccioni con una fava. Finalmente sono riuscita a dirlo, dottor Aquilar, perché ci sono questi modi di dire che a me fanno andare in tilt, non so perché, dottor Aquilar. 18:30 la Mondadori in Piazza Duomo, vi aspettiamo tutti. E soprattutto faremo lavorare il dottor Ongaro. Dottor Aquilar, abbiamo 30 secondi, forse un minutino. Dai. Quello che possiamo dire rispetto a quello che diceva la dottoressa Flaugnacco è che la musica aiuta ad aumentare la competenza emotiva e comunicativa. Ed è questo il motivo per cui aiuta anche lo sviluppo delle altre intelligenze settoriali. Quindi da questo punto di vista, appunto, l'utilizzazione delle parole ci aiuta a comunicare meglio, e quando superiamo l'iniziale paura dell'inganno, che è quella che maggiormente ci mette in allarme, riusciamo poi ad avere un contesto di ascolto e di comunicazione assolutamente soddisfacente per tutti. Grazie al dottor Aquilar, al professor Iannoccari, che ci fa sempre lavorare e lo fa anche sul nostro Daily Lab insieme al dottor Aquilar, ma bene, siamo contenti, vogliamo invecchiare bene con lei, professor Iannoccari, e al dottor Ongaro. Grazie a voi che ci avete seguito, scappo, vi saluto, a domani, buona giornata. Essere e benessere.